Allora, rientriamo in voce. Qui, insomma, sono in studio diverse persone. Dunque, iniziamo dopo averla annunciata questo spazio. Iniziamo questo spazio in cui affronteremo in continuità, insomma, con le iniziative di questi giorni, in modo che il palinsesto comunque sia sempre più così centralizzato dal punto di vista dell'attenzione, del tempo dedicato, insomma, alla questione delle sentenze di Genova. Dunque, oggi è qui con noi Carlo, uno dei 10 compagni e compagne, insomma, che è sotto processo e che è in attesa, come tutti noi, insomma, di questa sentenza, di questa fatidica giornata del 13. Quindi, innanzitutto, ciao Carlo, buongiorno. Buongiorno a te. Allora, Carlo, insieme a tantissime altre persone, migliaia e migliaia, centinaia di migliaia di persone, nelle giornate del G8 genovese si trovava per l'appunto lì a Genova, pur non avendo chissà quali contatti, insomma, con diciamo le realtà che hanno costituito un po' l'ossatura di quel movimento. Nonostante questo, appunto, però si trovava lì, avrà avuto sicuramente le sue ragioni, come le ragioni di tantissime altre persone. E questo è un fatto importante, un primo fatto importante, perché ci informa anche un po' della pluralità, della ricchezza, insomma, di quella piazza. Come abbiamo sempre sostenuto, lì a Genova, insomma, è stato uno di quei momenti in cui, al di là dei percorsi organizzativi, al di là se si era interni o meno ad essi, comunque c'è stato un sentire comune che ha spinto, scusate, tante persone a non mancarlo quell'appuntamento. Tu che stavi facendo in quel periodo, Carlo? Era un periodo estivo, quindi si moriva dal caldo. Eravamo tutti in vacanza. Io sono salito solo, personalmente. Sono partito da Palermo solo con un treno che era stato organizzato da dei gruppi di ragazzi che, come voi, organizzano tutti questi eventi e tentano di far muovere le persone aiutandole. Noi ci siamo incontrati con l'altro ragazzo praticamente sul treno. L'intenzione che ci ha portato lì era, oltre che andare a guardare un bell'evento, speravamo che l'evento non si trasformasse in tutto quello che è successo, che oggi noi purtroppo ricordiamo. Speravamo fosse una bella manifestazione, speravamo trovare persone, speravamo trovare musica, speravamo che tutto questo servisse comunque a dimostrare che non tutti sono d'accordo a quello che succede, fatto da tanti potenti. Noi siamo partiti non politicizzati da alcune idee, siamo semplicemente partiti convinti che quello che stavano organizzando queste persone non ci piaceva. Volevamo soltanto capire come lo stavano organizzando e sembrava un buon momento per andare a dare un'occhiata. Cioè, non mi sembrava una brutta idea andare a vedere una cosa del genere. Sapevo che potevano succedere, come in tutte le manifestazioni, delle cose che spesso capitano, come, ma non pensavo così tanto, cioè che arrivassero a tanto. Diciamo che la cosa mi ha stupito fino a un certo punto. Comunque è stato un bel momento, almeno il primo giorno. Ci ha fatto capire che non soltanto, cioè, intanto è stato bello per noi che l'abbiamo vissuto, perché poi non si è mai visto quasi una giornata del primo giorno. Hanno soltanto fatto vedere sempre il secondo e il terzo giorno con tutte le parti brutte, cioè, nel senso, hanno soltanto descritto questa manifestazione solo unicamente per il brutto che ha generato. Però c'è stato anche del bello. Tante persone si vedevano che erano unite per un'idea comune, tanti gruppi erano uniti per l'idea comune, e noi che non appartenevamo a nessun gruppo avevamo, devo dire, anche questa idea comune, che questa organizzazione così in grande non ci convinceva. Allora, queste chiaramente sono le riflessioni, i pensieri, insomma, che saranno appartenuti anche a tanti altri, a tante altre persone che hanno deciso di salire su a Genova. Poi, insomma, le manifestazioni sono andate come sono andate, anche e soprattutto per via dell'atteggiamento, insomma, che già da giorni era nell'aria, un clima teso, montato e creato ad arte. La morte di Carlo, che ha segnato tutti, e poi, insomma, il peso delle orribili vicende, insomma, della Diaz, di Bolzaneto, l'assalto alla scuola. tutte cose insomma che ormai fanno parte un po' della cronaca, un po' dovrebbero far parte della nostra memoria, se si ha la capacità chiaramente di costruirlo, un meccanismo di così riconoscimento in una memoria collettiva. Al di là di questo, poi insomma, ad alcuni compagni comincia, nei confronti di alcuni compagni e compagne, nei confronti di alcune persone che si sono ritrovati a Genova, comincia ad accanirsi la repressione. Tu, Carlo, sei appunto stato coinvolto, a che titolo, in che misura? Molti sappiamo ad esempio che sono stati coinvolti dietro segnalazioni di vario tipo, insomma, quali sono state le circostanze per le quali sei finito in mezzo, insomma, ai 26 per il reato di devastazione e saccheggio? Ma noi siamo stati arrestati il secondo giorno, praticamente in mezzo alla strada, lontani dagli scontri, in un contesto del tutto differente da quello che si vede nelle immagini comuni, diciamo. Eravamo che tentavamo di uscire dalla città con un motore che avevamo trovato tra le varie cose buttate per strada, tra le cose, varie cose oramai utilizzate per bloccare l'avanzata della polizia. Utilizzammo questo motore per muoverci all'interno della città nella speranza di trovare comunque una via d'uscita, ma non era assolutamente facile, come ricorderete, con tutte le palizzate tra la polizia, i posti di blocco, i muri alzati solo per l'occasione, le strade che non conoscevamo, perché comunque non siamo di Genova, siamo di Palermo, ha fatto sì che ci perdessimo più volte, fino a ritrovarci in un angolo di Genova dove ci siamo incontrati amichevolmente, ovviamente ironizzo, con un gruppo di 7 poliziotti in borghese di fronte a una questura, e lì è nato, diciamo, il nostro arresto. Loro si sono piazzati in mezzo alla strada nel tentativo di fermarci, noi ci siamo scontrati con loro, insomma alla fine l'arresto è stato fatto. Quindi l'arresto si è consumato in circostanze comunque non di scontri di piazza. No, non assolutamente. È stato in circostanze di che loro in quell'istante, come la gente ricorda, arrestavano chiunque non avesse una divisa, o chiunque si avvicinasse a loro, o chiunque comunque gli sembrasse un possibile problema. Quindi, ma in quell'istante gli siamo sembrati un problema, evidentemente, e ci hanno voluto arrestare. Ecco, dopodiché, insomma, per attribuirti e imputarti un reato insomma così eclatante, altisonante, quantomeno a sentirlo nominare, devastazione e saccheggio, sembra insomma che a Genova coloro i quali sono stati così raggiunti da questi provvedimenti, da queste accuse, possano essere assimilati a chissà quale onda barbarica, Vichinghi, insomma, esatto, unni, richiama un po', non insomma, si capisce esattamente che idea hanno di noi. Sinceramente, questa cosa della devastazione e saccheggio, quando era iniziata, sembrava l'accusa meno problematica, cioè, ignorantemente parlando, quando loro si sono presentati con tutte le accuse nei nostri riguardi, che erano parecchie, poi negli anni sono cascate tutte. Questa sembrava la meno grave, perché tra le accuse c'erano tentato omicidio, trasporto di arma da guerra, fabbricazione d'arma da guerra, un attentato a una caserma, danneggiamento a cose e persone nel grado di poliziotti, oggetti degli stessi, e la devastazione e saccheggio e tante altre piccole cose. Il furto del motore, cosa che, fra parentesi, anche ironica, perché la stessa proprietaria del motore poi ci ha, venendo a testimoniare, ci ha riconosciuti come persone che le hanno riconsegnato il motore, in quanto sapevamo che non era nostro, le abbiamo spiegato che la cosa ci serviva per fuggire dalla polizia, e quindi diciamo tutti vissero felici e contenti perché lei ha riavuto il suo motore e niente di grave. Però poi negli anni tutte le varie accuse andarono cascando, perché in effetti loro non avevano nessuna prova reale per tutte queste accuse, c'erano tutte cose fatte a tavolino praticamente. L'unica che avevano in effetti era il motore, però col passare degli anni gli è caduta l'unica accusa per la quale veramente potevano discutere, ironia della sorte. Oggi rimane la devastazione e saccheggio, che sta risultando invece, alla fine di tutto il discorso, il problema più grave, il problema più assurdo da discutere, perché poi negli anni, giustamente studiando la cosa, ci siamo resi conto che noi abbiamo difficoltà a dimostrare quello che loro ci accusano, tanto quanto loro hanno difficoltà a dimostrare quello che loro ci accusano. Però nel dubbio questa cosa rimane nell'aria, è un ottimo collante per allungare questo processo, per fare vedere alla gente che all'esterno, che loro stanno facendo chissà quale lavoro a livello di giustizia, a livello di correttezza, a livello di proprio di aver risolto un problema. Hanno arrestato questi 25 black bloc, però non dicono che avevano arrestato centinaia di migliaia di persone inizialmente, che hanno rilasciato tutte perché i resti non erano validi. Cioè alla fine questi 25 sono una scrematura di tutta una serie di eventi che non sono riusciti a svincolarsi dalle loro falsità. Quindi ci siamo ritrovati coinvolti in una situazione praticamente di montatura totale, costruzione di prove, false bombe Molotov, false testimonianze che poi hanno portato a denuncia appunto poliziotti per falsa testimonianza. Diciamo che nell'insieme pensavamo di aver risolto tutto quando avevamo eliminato tutte le varie accuse più gravi, tra cui anche un tentato omicidio che sembrava assurdo, ma intanto ci hanno detto pure questo qua, perché ci accusavano di lanciare una bomba Molotov che poi a quanto pare era una bottiglia di plastica che loro hanno presentato in fotografia, di plastica con scotch avvolto, cioè neanche una miniccia, qualche cosa che la potesse fare detonare, niente di niente. Ovviamente con la plastica non si ottiene niente. Loro però hanno detto che era così pericolosa che hanno coinvolto un poliziotto che appunto si occupa di far esplodere, questi professionisti che hanno portato il tutto in un luogo sicuro e l'hanno fatto detonare perché a quanto pare una bottiglia di plastica. Hanno utilizzato degli artificieri per fare esplodere. Non un artificiere particolare, ma era un capo degli artificieri, perché ci voleva un professionista, dei professionisti. Uno dei più seri. Insomma. Esatto, uno dei più seri che giustamente aveva motivo di fare una cosa così pericolosa. A quanto pare una bottiglia di plastica tenuta in una questura è di una pericolosità tale da eliminarla e da farne una documentazione da presentare in un tribunale per poi presentare una prova sotto forma di fotografia che in teoria doveva avere sulla plastica le mie impronte, in quanto loro dicono che l'avevo lanciata io. Niente, hanno deciso che era troppo pericolosa. Distrutta. Senti, a proposito di falsità e di prove, insomma, inconfutabili, tra le diciamo l'accusa per dimostrare, insomma, il fatto che vi siete resi protagonisti di atti di devastazione e saccheggio, ha messo insieme una serie di immagini nelle quali tu e Antonio, la persona, insomma, con cui, diciamo, hai trascorso le ore sì. Di Genova, che insomma. Ricordo che siamo partiti entrambi soli, inconsapevoli che stavamo partendo l'uno nei riguardi dell'altro, per poi incontrarci su questo famoso treno e dirci, una volta che siamo insieme, facciamoci compagnia. Tutte e due di Palermo. Tutti e due di Palermo. Era tutto un treno di Palermo, però dico tutti e due di Palermo, già conoscenti in quanto amici di vecchia data anche del fratello, quindi praticamente ci siamo ritrovati a dire perché no, altronde. Una volta che ci siamo incontrati sembrava una cosa quasi graziosa, dire ci passiamo il tempo insieme. Sì, le prove portate da loro sono state veramente incredibili, sulle foto, su tutto il genere di situazioni, perché loro praticamente hanno portato foto di noi praticamente per tutta Genova, di fronte a quasi tutti gli eventi caldi, di fronte al di per di, di fronte a tutti i posti che sono stati, diciamo, contestati all'interno del coso, noi eravamo lì vicino. Mi dispiace da un certo punto di vista perché gli abbiamo dato cose da fare, perché loro hanno dovuto ricostruire tutto un nostro percorso basandosi sulle ore delle foto e poi tutti i buchi che avevano ci hanno messo, diciamo, come si vuol dire, un po' di immaginazione, un po' totale immaginazione, perché quando loro ci vedevano in una via a un certo orario, 10 minuti dopo in un altro orario, se in quei 10 minuti c'era stato, che ne so, un cassonetto che era dato fuoco, il giudice ha detto che siccome eravamo in zona sicuramente dovevamo essere stati noi. Come se fossimo solo noi in quel momento a Genova, cioè siamo entrati nel ridicolo. Quindi le prove che hanno loro sono praticamente foto, mai hanno avuto una prova evidente di un nostro danneggiamento. Loro ci vedono passare col motore o ci vedono posteggiati con questo motore o semplicemente seduti da qualche parte vicino o in zona dove sono avvenuti dei momenti caldi. E insomma, beh, fa pensare, perché appunto viene alla mente come possa essere utilizzato, insomma, un collage del genere, no? Un film nel quale ci sono pochi punti neri riempiti e poi una serie di spazi bianchi nei quali appunto evidentemente gli investigatori hanno avuto l'idea brillante di usare fervida immaginazione per riempirli. E questo, insomma, peraltro è quello che è accaduto anche alla maggior... Hai detto investigatori o sceneggiatori? Non ho capito. Ecco, probabilmente le due figure coincidono in questo caso. Ma appunto Cioè, io non ho visto nessuna indagine in questi 11 anni, io ho visto soltanto una cozzaglia di prove portate, e quindi siccome erano lì era evidente che se noi eravamo lì erano colpevoli. Cioè, questo non mi sembra un gran modo di fare indagini, forse a livello poliziesco o televisivo. E questo rimanda anche peraltro al uno dei problemi principali interni alla definizione e alle fattispecie di reato, insomma, di devastazione e saccheggio, che è il cosiddetto concorso morale, per alcuni compartecipazione psichica, insomma. Famosissimo. Ho letto il fumetto, è molto divertente, di questo telepate. E di fatto si tratta proprio di questo, insomma, sì, no? Cioè, nel tuo caso, cioè il fatto che poi fosse lì automaticamente implica un vostro concorso morale rispetto a tutto ciò che vi accadeva attorno. Qualunque cosa, noi facevamo parte di questa compartecipazione psichica, a quanto pare, che coinvolgeva tutti, quasi lobotomizzando tutte le idee comuni, portandoci tutte a fare la stessa cosa, pur non conoscendoci nessuno. Vedi che empatia che si è creata. Cioè, incredibile. Strano però che, ad esempio, i celerini che si sono ritrovati all'interno della scuola Diaz non siano stati accusati di concorso morale, perché dovrebbe valere, insomma, la stessa cosa. Ecco, questo può essere un interrogativo che possiamo porre, insomma, a chi ci ascolta, soprattutto a chi ci ascolta in modo non disinteressato, ecco. Perché le persone, insomma, i comuni mortali possono essere al centro di accuse di questo tipo sulla base del concorso morale, e poi invece i celerini, poliziotti, carabinieri, finanzieri, che stanno lì evidentemente proprio per quello, cioè per fare quel tipo di lavoro, partecipare a quell'operazione, e quindi ha voglia a parlare di concorso morale, insomma, in realtà lì invece si cerca di capire chi ha fatto cosa, e poi sappiamo anche come spesso vanno le cose nei loro riguardi, perché indossano la divisa, e infatti anche nel caso di Genova la maggior parte di loro ha fatto carriera. Ora attendiamo anche le sentenze di domani, insomma, per vedere se per l'appunto c'è l'interdizione dai pubblici uffici per alcuni dei dirigenti che hanno ordinato l'operazione e che erano presenti, insomma, lì alla scuola Diaz. Ma poi, insomma, però di celerini ce n'erano tantissimi, un numero assolutamente spropositato, e non è che tutti sono andati a finire alla sbarra perché accusati di compartecipazione psichica nei pestaggi. Quindi ancora una volta, così, insomma, davvero due pesi e due misure, come si suol dire. Dunque, sono le 11:40 e noi abbiamo un appuntamento importante, quindi chiediamo a Carlo di pazientare un po', perché andiamo a sentire alcuni degli artisti che saranno presenti domani a Piazza Trilussa.